finalmente a Bologna. Sì, lo ripeto, finalmente a Bologna un'esposizione, una serie di esposizioni con progetto di ricerca, con la possibilità di vedere per la prima volta alcuni aspetti, alcuni capolavori veramente inestimabili. Un percorso purtroppo sottovalutato, un momento in arte che ha dato all'Ottocento, ha dato alla nostra città, che già dall'epoca crocevia di importanti scambi commerciali, di importanti motivi di incontro culturale, di importante realtà di una città sempre in estensione per quanto riguarda lo sguardo legato alla cultura, all'espressione artistica. Il lavoro portato da Roberto Martorelli, dal Museo del Risorgimento, da Isabella Stancari, ricercatrice storica dell'arte, co-curatrice di queste esposizioni, da tante sedi espositive che verranno presentate nella puntata odierna. Già ne abbiamo dato un'anticipazione, un numero zero con Eva degli Innocenti, dal Comune di Bologna, coordinatrice delle sedi espositive del settore Musei Civici di Bologna, e la possibilità veramente di avere un periodo che ci porterà fino al 30 giugno 2024 con delle mostre, con delle esposizioni di una qualità e di un livello veramente altissimo. La ricerca, il progetto, la curatela, la bellezza, la storia, il conoscere, insomma, quello che purtroppo è stato da molto tempo racchiuso e rinchiuso in questa splendida città, ma mai ha visto la luce e ha dato la possibilità non solo a noi bolognesi di poter godere di queste meravigliose immagini. Iniziamo ufficialmente il viaggio allora con Roberto Martorelli, co-curatore della pittura a Bologna nel lungo 800 1796-1915 dal Museo del Risorgimento, e poi parleremo ovviamente di diverse sedi espositive. Inizia il viaggio per il lungo 800 con Roberto Martorelli. Già ne abbiamo avuti il sentore per quanto riguarda la grande portata di questa iniziativa, quindi continuiamo la nostra conversazione con i protagonisti, con noi Roberto Martorelli del Museo del Risorgimento. Innanzitutto buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti e a tutte. Cominciamo a viaggiare nel tempo ma anche nell'arte. Il perché di questo focus l'abbiamo già scoperto con la co-curatrice dell'iniziativa. Con te magari ci addentriamo nelle sedi espositive e facendo un po' un punto su alcuni motivi di incontro. Sì, diciamo, è una mostra diffusa, quindi non è una mostra in un unico luogo, per fortuna, perché abbiamo scoperto dall'ultimo controllo che siamo arrivati a oltre 600 opere, quindi avere un posto solo per 600 opere sarebbe stato assolutamente impossibile. Sono coinvolte anche zone esterne all'area comunale, quindi San Giovanni Persiceto, Crespellano e San Lazzaro di Savena, quindi è un progetto che si sviluppa sull'area metropolitana. Quindi un soldoni, sono 18 sedi complessive, circa 600 opere in mostra e un corredo di iniziative per scoprire attraverso le opere, col pretesto delle opere, la storia, il costume, ovviamente l'arte del nostro lungo 800, da Napoleone alla Grande Guerra. Perché questo focus? Perché portare un'attenzione non solo per le cittadine e i cittadini, ma per appassionati in generale, a questo ben preciso periodo storico? Allora, innanzitutto perché il nostro Museo Civico del Risorgimento, di cui io faccio parte, si occupa proprio di questo periodo storico, e poi soprattutto perché dal punto di vista dello studio della pittura, appunto del lungo 800, negli ultimi, possiamo parlare, decenni sono state fatte molte scoperte, molti ritrovamenti di artisti un po' dimenticati, quindi diventerà anche un po' mostrare dopo decenni alla cittadinanza un patrimonio diversamente un po' nascosto. Perché è stato nascosto? È uno di quei misteri insindacabili della nostra città. Diciamo che a livello di scultura siamo fortunati perché la Certosa col suo museo ce l'ha aperto, ce la mostra tutta, anche l'architettura. Sulla pittura purtroppo gran parte del patrimonio non è esposto. Ci sono due bellissime sale dedicate a Palagio Palagi e una sala dedicata all'Emilia Arsa all'interno delle collezioni comunali d'arte, ma ovviamente non sono rappresentative di tutto quello che si potrà vedere, perché già solo l'elenco degli artisti rappresentati in mostra, che sono solo una parte dei artisti bolognesi del lungo 800, insomma, si capisce che i numeri sarebbero, volendo, ben altri. Da quanto tempo ci state lavorando? Allora, su quest'idea di mostra diffusa è tutto è nato col bollettino che ha scritto Isabella per noi del Museo del Risorgimento nel 2020-22, e da lì è scaturita l'idea perché sono nati nuovi contenuti, c'è le nuove scoperte, certo. Cioè, c'è un motivo di, proprio di studio alla base di quest'idea, quindi è 2 anni per creare una rete che è cominciata piccola ed è diventata di tutto importante. Pelagio Pelagi, pittore di corte, potrei andare avanti ovviamente a oltranza con questi nomi e aggiungo anche che ieri con la presentazione che si è tenuta a Palazzo Fava, altre sedi espositiva, un Antonio Basoli gigantesco, Antonio Basoli il fantastico, eh? Abbiamo poi chiaramente Serra, Masotti, Romagnoli e oggi, tra poco, al Museo dell'Ottocento, altra sede ovviamente espositiva con Francesca Senigallia, un focus sul grandissimo simbolista De Maria, cofondatore della Biennale di Venezia. Io ho una grande possibilità che è quella di vedere con qualche anticipo questi contenuti e ne sono rimasto incantato, stravolto piacevolmente da tutti, al Collegio Venturoli, lo sviluppo del talento, lo sviluppo della tecnica, una sede dove l'inizio e la preparazione di questi giovani artisti, poi trovarli già da giovanissimi, resterete incantati, e poi nella sede adiacente al Collegio Venturoli in via 100-304 avrete la possibilità di vedere poi i grandi capolavori in età matura, ed è qualcosa che è stato purtroppo tenuto, non dico nascosto, però insomma un po' sottovalutato, è il periodo che invece merita un'attenzione, una bellezza, l'Ars Emilia, è il movimento artistico che da Bologna ha trovato motivo dialogico e comparativo con tutti i movimenti artistici dell'Ottocento, con una sua identità e una sua forza, per cui un Ottocento prezioso, un Ottocento che vede anche nell'alfabeto pittorico la raccolta dei pensieri pittorici di Basoli, le visite guidate, gli incontri, insomma, ovviamente tutto ciò non ve lo posso elencare, però vi consiglio di consultare le apposite, almeno la rete in questo caso, già la parola rete mi dà fastidio pronunciarla, però in questo caso ci viene in aiuto per selezionare. Io andrei in tutte e tutti, anzi ci tornerò, e poi ovviamente laboratori, attività per le famiglie, conferenze, un altro grande artista, Alessandro Guardassoni, un tra virgolette ritorno alla normalità, per l'idea di quello che è un'immagine molto molto concreta e un ipotetico realismo magico, se vogliamo, anche a Bologna, e con Roberto Martorelli, che già ha dato un incipit a questa nostra conversazione, a breve avremo anche Isabella Stancari e continuiamo a parlare con Roberto. La musica che ho selezionato per voi è Blue Note, è il grande hard bop, il grande grande momento di anni 50 e 60 nel jazz per una label che sì, secondo me, certo, è importante la Blue Note e tutto, ma molte volte è vista un po' come la Blue Note, sì, insomma, no, sì, la Blue Note, punto e basta. È una label musicale per quanto riguarda la bellezza, l'estetica, la diffusione di note raffinate, di giganti della musica, come abbiamo giganti dell'arte in questo lungo 800 per la città di Bologna. Nella Bologna d'epoca ci sono diverse correnti artistiche, non dico in Italia, ma addirittura in tutto il mondo. La Bologna dell'epoca dove si rivolgeva o come si rivolgeva? Diciamo che la Bologna ha visto nascere un solo movimento proprio riconosciuto a livello internazionale, che è proprio quello dell'Emilia Ars, tant'è vero che poi si meritò una sala dedicata alla Biennale di Venezia, mi sembra del 1902-1904. Detto questo, ovviamente Bologna ha vissuto e attraversato tutti i movimenti artistici italiani ed europei, ma li ha attraversati con dei rappresentanti di livello non solo di importanza locale, ma di importanza internazionale. Mi piace sempre segnalarne solo tre, perché sono proprio i tre gigantoni. Uno è Pelagio Palagi, fortunatamente ben rappresentato nelle sale delle collezioni comunali d'arte, che diventerà l'artista di corte dei Savoia, quindi qualsiasi cosa c'è da fare di artistico nelle residenze di Savoia, lui arriva. E Pelagio Palagio. Il secondo è Mario De Maria, in arte Mario Spicco. Un simbolista, amico di D'Annunzio, amico di Carducci, insomma, è veramente un personaggio cofondatore straordinario. Cofondatore della Biennale di Venezia. È stato uno di quelli che ha fatto fondare appunto la Biennale di Venezia, ha esposto in tutta Europa, insomma, uno dei più visionari, proprio letteralmente, gli artisti bolognesi. E il terzo, e così arriviamo in fondo al lungo 800, è Carlo Corsi, che è uno dei pochissimi artisti, non dico bolognesi, ma italiani, che cominciano figurativi e terminano informali puri, cioè neanche informali naturalistici, informale, proprio astratti puri. E insomma, non sono tanti che fanno un salto così epocale. E quindi, insomma, è un viaggio molto interessante. Perché fare questo viaggio? Perché vi rifarete gli occhi. Io ho già avuto le mie belle anticipazioni, ci sono uscite fuori dei dipinti mai visti da nessuno, veramente di una bellezza unica. Alcuni sono proprio straordinari, poiché amo l'Ottocento. Di mio, insomma, ovviamente mi entro l'entusiasmo facile, ma su 600 opere penso che ognuno troverà qualcosa che gli interessa. Grazie tanto, Roberto. Grazie a voi. Thank you. i miei parallelismi musicali, se Kenny Dorham potrebbe essere Corsi, grandissimo artista, un gigante per quanto riguarda quello che è appena stato descritto con queste note e queste pennellate di un'estetica meravigliosa. Joe Henderson, uno dei capostipiti di un simbolismo art bop e De Maria. Oggi vi sarà la presentazione al Museo dell'Ottocento per l'esposizione dedicata a De Maria, uno dei miei idoli tutti i tempi. Il ritorno alla, ho definito normalità perché è una parola che non è, è ritorno all'ordine se vogliamo, in questa corrente che mi sono immaginato, anzi non mi sono immaginato, esiste veramente, però ho abbinato al Guardassoni in un lavoro che ho appena così passando tra un catalogo e l'altro mi ha portato nell'immaginazione questo abbinamento, e poi abbiamo Cesare Bacchi in questa veduta dei Giardini della Montagnola, è esposto alla Fondazione Collegio Venturoli, parleremo anche del Collegio Venturoli. Per Guardassoni bellissimo è La partita a scacchi, un dipinto del 1865 esposto alla Fondazione Gualandi. Fava, altra sede, come ho già detto, il Museo Davia Bargellini, il Museo dell'Ottocento, la Fondazione Gualandi e anche nei nostri dintorni con San Giovanni in Persiceto, i luoghi di incontro, la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, la Certosa di Bologna, museo a cielo aperto, la Mediateca di San Lazzaro di Savena. Thank you. Questa prima parte la chiudiamo con Horace Silver, il nostro Pelagio Pelagi, se vogliamo. Ho dato a ogni artista un'identificazione musicale. Beh, questo fa parte della rubrica in mostra, vi ho anche spiegato il perché Horace Silver con i Jazz Messenger è un po' un musicista di corte, se vogliamo. Senior Blues is what they call him. La voce di Bill Anderson. Way down Mexicali way. Senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they love him. Senior Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Come ho organizzato per dare dettagliata presentazione a questa rassegna, anche per quanto riguarda le sedie espositive che ne faranno conferenza stampa. Allora, per la prossima puntata, Collegio Venturoli, Palazzo Fava, e oggi sarò in conferenza stampa per il Museo dell'Ottocento. I don't know why, don't know why, don't know why. I'm a wandering, wandering guy. Che con questo aspetto capillare saranno presenti nella prossima puntata della rubrica in mostra. Durate fino al 30 giugno, quindi così in linea di massima, e vi sto dando l'estensione. Ufficialmente parte primo giorno di primavera ed è una scelta di partenza secondo me molto azzeccata per la pittura a Bologna nel lungo 800. Got the blues and it's all costing you. E finalmente a Bologna c'è un'attenzione che merita per la città che nel periodo e che in tutti i tempi ha avuto nell'arte un'importanza che non deve essere sottovalutata, tutt'altro, anzi onore al merito a chi con entusiasmo e caparbietà ha saputo riportare e portare in esposizione questi capolavori. Ringrazio ancora una volta Roberto Martorelli. Nella seconda parte avremo Isabella Stancari, due co-curatori delle esposizioni, per questa visione esaustiva di inizio in mostra sui 103.1. Siamo in contemporanea anche con l'apertura, la musica è della Blue Note. Oh, finalmente a Bologna con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Cali way. Senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they love him. Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking. And he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking. And he always knows just what to say. By the time that they love him. Saying your blues done gone away. Anche per Blue Note tanti gli artisti, Beh, abbiamo ascoltato Joe Anderson, Kenny Dorham, Horace Silver, John Coltrane, stiamo ascoltando il Camaleonte, Herbie Hancock, che poi arriverà all'informale, come abbiamo ascoltato da Martorelli, sapete l'estensione dell'esposizione in un informale che vede un jazz fusion negli anni in cui il Camaleonte con gli Ed Hunters e oltre ha portato un avant funk anche elettronico. Hubbard, se vogliamo un Luigi Serra, che è stato un sideman di un pregio incredibile, qui alla tromba per Watermelon Man, Herbie Hancock. Comunque, io vi posso dire che potete trovare, c'è un bellissimo, come si può dire, piccolo catalogo, ecco, una piccola guida che potete trovare nelle sedi espositive che vi daranno notizie e indicazioni, allo stesso modo vi può rimanere per quanto riguarda un orientamento in tutte queste visite che potete effettuare all'interno della rassegna. Vi ho parlato di una co-curatela e di uno studio, una ricerca portato da Isabella Stancari che ho contattato, e quindi aggiungiamo una voce da protagonista all'interno di questa combinazione che ha visto collaborazioni giovani, prestigiose, che seguo da tempo e che sono molto contento di portare al Breakfast Club. Sentiamo Isabella Stancari. Inizia un nuovo viaggio per Bologna e non solo, incentrato su un'epoca seppur estesa, ben definita, che è il lungo 800, e siamo in compagnia di Isabella Stancari, co-curatrice del progetto. Perché proprio questo focus? Perché proprio l'Ottocento? Perché l'Ottocento è poco esposto a Bologna, a parte le collezioni comunali d'arte che effettivamente lo espongono, tanto Ottocento bolognese è anche tenuto per ragioni di spazio, per tante cose, in deposito. E poi perché il Museo del Risorgimento ha avuto fiducia in me e mi ha fatto scrivere un numero monografico del loro bollettino sull'album Belluzzi dedicato alla pittura dell'Ottocento. Raffaele Belluzzi è stato il primo direttore del Museo del Risorgimento di Bologna, aveva lasciato 3 grandi album fotografici al museo, uno dedicato agli eventi e all'architettura, uno alla scultura e un terzo alla pittura. I primi 2 erano stati già pubblicati, il terzo no, quello sulla pittura no. Io mi sono messa lì a studiarlo e tante cose esistono ancora a Bologna, ma appunto sono in deposito, però rintracciabili nei musei, tante altre non lo erano. Qualcosa è saltato fuori con questo studio e quindi l'idea è stata di organizzarci una mostra. Artisticamente cos'è stato predominante oppure così nei percorsi dell'epoca a Bologna? L'Accademia sicuramente, la pittura accademica è tradizionalmente molto forte ancora durante tutto l'Ottocento a Bologna, e poi naturalmente i premi sono, diciamo, una stella polare, ecco, per i pittori dell'Ottocento bolognese, i premi Curlandese, il premio Baruzzi. È una pittura per tanti aspetti, per lungo tempo, molto conservatrice, però abbiamo visto e abbiamo riscontrato che in realtà nei primi anni 60 si vede uno scambio, per esempio con Firenze, perché i pittori bolognesi andavano ad esporre a Firenze, i fiorentini venivano ad esporre alla Protettrice a Bologna, quindi non si può dire che non ci sia accortezza, non si sia consapevoli del fatto che ci sia, per esempio, in Toscana la pittura di macchia. Anche il nostro Masottino, il Masotti, se vogliamo, con questa bellezza, con questa precisione. Lui è Kenny Barrella, la chitarra per Blue Note Record. Sotto i baffi quando dico adesso Bologna non ha più nulla da invidiare a Rovigo, ma non lo dico con ironia, non lo dico affatto con ironia, perché la linea di Palazzo Roverella a livello di esposizione era una linea che mancava totalmente nella nostra città per quanto riguarda una completezza. La linea di Palazzo dei Diamanti per la nostra città è qualcosa che insomma ha latitato parecchio, La linea di Palazzo Zavarella a Padova è una linea che ha mancato molto, anzi con tutti i capolavori che abbiamo, ma come? Grandi nomi, fra l'altro, è stata sottovalutata, ma il percorso in mostra sarà, vi posso assicurare, qualcosa che sbalordisce, piacevole stupore. Le sedi espositive, nello specifico alcune, non tutte, saranno riportate nella prossima puntata. Ho già citato Collegio Venturoli, Museo dell'Ottocento e Palazzo Fava, che avremo la possibilità di approfondire nella prossima puntata. Entriamo in mostra, o meglio dire entriamo nelle mostre, perché è un progetto veramente esteso sia nel tempo che nello spazio. Da dove partire? Dal Museo del Risorgimento, dalla sala polivalente del Museo del Risorgimento, girandosi tutto il Museo del Risorgimento, perché oltre a cimeli storici ci sono anche tantissimi splendidi dipinti del nostro Ottocento, poi visitando la sala polivalente dove ci sono dei premi curlandesi, c'è una piccola sezione di paesaggio, una piccola sezione dedicata invece alla pittura risorgimentale, con un meraviglioso ritratto di Antonio Puccinelli, che è un toscano che è professore alla cattedra di pittura a Bologna proprio a partire dall'unità, dal 60-61. E quello è l'inizio, perché c'è un po' di tutto, c'è anche la pittura di tardo Ottocento, c'è uno splendido ritratto di Luigi Serra che viene dal Mambo, ci sono dei prestiti dal Mambo stupendi. E poi si continua, le sale allestite alle collezioni comunali d'arte, una dedicata al paesaggio, si va dal primo Ottocento, si arriva praticamente al primissimo Novecento, e poi una dedicata ai concorsi curlandese e Baruzzi nella seconda metà dell'Ottocento, e poi si gira la città, scarpe da trekking e si gira tutta la città, c'è la Fondazione Carisbo, il Collegio Venturoli, le gallerie private, veramente c'è una ricchezza, io non me li ricorderò tutti, ma c'è veramente una ricchezza enorme, infatti c'è un librettino con la mappa di tutti i luoghi da andare a visitare, tutte le istituzioni, enti e gallerie che espongono, tutte le iniziative legate alla mostra, le conferenze, le visite guidate, tutto. Esatto, perché ci saranno anche incontri collaterali. Sì, c'è un ciclo di conferenze in più sedi, c'è il Museo del Risorgimento, c'è la Biblioteca del Poggiale della Fondazione Carisbo, c'è l'ASCOM, ci sono mostre anche fuori a Crespellano, insomma veramente con mostre e le conferenze. Certo, quindi, allegate. Esatto, quindi è veramente avevo una letto, cosa ricchissima. Poi magari mi sbaglio perché sto lavorando anch'io su diversi fronti, di San Giovanni in Persiceto. Sì, c'è anche San Giovanni in Persiceto che collabora con una propria piccola esposizione, poi ci sono anche lì conferenze che si possono tutte vedere nel librettino che si può scaricare dal sito del Museo del Risorgimento. Ci sono dei bellissimi paesaggi anche che verranno esposti, stupendi, sulla Val Samoggia per esempio, sì. Un ciclo di paesaggi stupendi di Ugo Geduzzi, inediti, perché questa mostra dà modo anche di esporre cose inedite, stupendi, di Ugo Geduzzi. Bene, buon viaggio allora. Grazie. Buona primavera. You may have problems with the one you love, and things just don't seem like they're gonna work out right. But don't let one cloudy day make you push love away. It's better. Palazzo Pava, ad esempio, riporta una sezione con delle ceramiche meravigliose. Ieri ve ne è stata la presentazione, sabato 6 aprile alle 16.30. Ne cito uno, la scultura nell'Ottocento bolognese da De Maria alla manifattura Minghetti. Dopodiché, sempre per quanto riguarda la giornata di sabato fino a mercoledì 8 maggio, anche sabato 18 maggio, Fondazione Gualandi, Alessandro Guardassoni, di cui vi ho parlato in precedenza, un pittore bolognese tra romanticismo e devozione, dei lavori tra l'altro anche a Palazzo Fava che ho visto ieri, veramente strepitosi. Insomma, adesso poi prenderne uno per uno non bastano i tempi del Breakfast Club che volge al termine. Io vi ringrazio per l'attenzione e chiaramente lascio al vostro buon gusto la scelta di questo insieme di capolavori che stanno circondando la nostra città. Nella prossima puntata andremo nelle sedi espositive indicate in precedenza con curatrici, organizzatori e collaboratori per il lungo 800 e la pittura bolognese, e per quest'oggi il Breakfast Club, nella prima puntata dedicata a questa rassegna, volge al termine. Domani andiamo in scena, avremo un last minute letterario con ospite in diretta, insomma domani una vigilia di weekend, il primo weekend di primavera, ricca colazione dalle ore 7. Ovviamente vi aspetto. Allora, detto questo, do un po' di appuntamenti, a parte che ieri poi c'è stato con Angelica, ma ve ne parlerò magari domani nel Jazz Live, concerto di Rob Mazzure che Fabrizio Puglisi, qualcosa di bellezza sconvolgente. Bologna, ci sono veramente incontri da non perdere. Con il Breakfast Club cerchiamo di coprire un pochino tutte le situazioni che possono portare curiosità, buon gusto, estetica, buon ascolto, insomma ben lo sapete, per la prima colazione in diretta. Intanto domani rassegna Agorà, ci portiamo in provincia per l'ottava edizione della stagione Agorà, e la rubrica In Scena tra poco, Edipeo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi ci sarà la rassegna stampa, sarò in rassegna stampa, poi scappo, vado al Museo dell'Ottocento per la presentazione di De Maria curato da Francesca Sinigaglia, e sarà nella prossima puntata in mostra. Vi mando un caloroso abbraccio, una buona primavera nuovamente con Radio Città Fujiko, super mattiniere e super mattinieri, mi raccomando, vi aspetto alle ore 7, poi il grande rock è dalle 10.30 alle 12.30 con Andrea Gozza e Angela Zocco per concludere la nostra mattinata. A domani, ciao a tutte, ciao a tutti, servo vostro William Piana, ciao, a domani. Thank you.